quel genio profondo ed elementare che si chiama buonsenso. I più umili, specialmente quelli che attraversando queste piazze non ricevono il saluto di nessuno perché il loro nome è quasi sconosciuto, custodiscono con amore il senso della verità e della giustizia e soffrono pene acerbe quando esso viene offeso o ferito. Di uno di questi uomini, di un povero impiegato vissuto in tempi particolarmente difficili, vi racconteremo la storia. Si chiamava Aldo Piscitello e viveva in questa casa. Anche questo è uscito in versione restaurata, tanto col film che uscì in Italia, quanto con quello che uscì all'estero, che era leggermente diverso. Il cofanetto li contiene tutti e due. Vi do un'ultima chicca, la collana di DVD Il piacere del cinema, distribuita da Teodora e diretta dal grande critico Vieri Lazzini, fa 100 uscite, è un bel compleanno e lo si festeggia con la pubblicazione di un capolavoro come Tre passi nel delirio, che era un film firmato a sei mani, diciamo, a tre firme: Fellini, Louis Malle, Roger Vadim. Insomma, per chi ama il cinema da tenere anche nella biblioteca e nella libreria come una sorta di libro d'autore, da collezione, questo è sicuramente un bellissimo cofanetto. Ig! Ig! Sono pronti i cavalli? Quando volete, Milena. Li voglio subito. Ma gli ospiti stanno ancora riposando. Ho dormito male stanotte. Svegliali tutti, devo uscire, cavalcare, per liberarmi da un sogno che ho fatto. È proprio stato un sogno? Talvolta dimenticate ciò che è realtà. Ed io sono l'unico che possa ricordarvi che sbagliate. Hai parlato abbastanza! Fuori dai piedi, vattene via! All'età di 22 anni, Frederica, contessa di Metzengerstein, aveva ereditato un enorme patrimonio. Raramente un nobile del suo rango aveva prima di lei posseduto domini così vasti. Frederica era una donna capricciosa. Faceva di giorno a notte e di notte a giorno a seconda del suo umore. Quella mattina, ossessionata dall'incubo di quel sogno, decise di andare con i suoi ospiti al castello dove aveva trascorso l'infanzia. Marchese, datemi da bere. Ci troviamo tra poco ancora con il meglio del sabato del villaggio. Okay, let's do it! un Natale emozionante, che fa storia. Beh, un Natale di cuore. E perché no? Anche di denari. Che questo sia un Natale di speranza, che dopo arrivi anche la Befana. Un Natale da raccontare. Beh, che sia un Natale che sotto l'albero porti la svolta non solo economica e non solo a parole. Un Natale in cui stare attenti. Molto, ma molto attenti. Perché se c'è una cosa in cui siamo tutti convocati, è proprio Natale. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono le 16. Merry Christmas! GR 24, il sole 24 ore. Almeno 14 vittime nelle Filippine per un attacco dei ribelli contro le comunità cristiane. Il Papa, cristiani perseguitati nel silenzio vergognoso. Attacco dell'ISIS a Fallujah, una trentina di soldati iracheni uccisi. Boxing Day in Premier League, è disfatta Manchester United contro lo Stoke City. Crisi nera, Van Gaal verso l'addio. Buongiorno da Sergio Nava e dalla redazione. Questi titoli in apertura. Però un'ultima ora, c'è stato un atterraggio di emergenza di un velivolo della Turkish Airlines con oltre 150 passeggeri a bordo nella città russa di Irkutsk. Il volo era partito dalla capitale kirghiza di Bishkek e si dirigeva verso quella mongola, Ulaanbaatar. Ancora indefinite le cause, non precisate le cause di questo atterraggio di emergenza. E almeno 14 persone sono morte in un attacco condotto da ribelli musulmani contro comunità cristiane nelle Filippine nel giorno di Natale, a riferirlo a una portavoce militare. 9 fedeli sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da ribelli del Bangsamoro Islamic Freedom Fighter, altri 5 insorti sono rimasti uccisi dalle forze governative nelle province di Sultan Kudarat, Manguidinao e Nord Cotabato. Preghiamo per i cristiani che sono perseguitati, spesso col silenzio vergognoso di tanti, ad affermarlo Papa Francesco in un tweet diffuso nella solennità di Santo Stefano. 27 soldati iracheni sono stati uccisi in un attacco dell'ISIS a sud di Fallujah, città a 50 km a ovest di Baghdad, nelle mani dello Stato Islamico. La città si trova nella provincia di Al-Anbara, il cui capoluogo Ramadi in questi giorni è oggetto di un attacco dell'esercito iracheno che cerca di strapparlo all'ISIS. Commemorazioni in molti paesi asiatici. Sono passati 11 anni dallo tsunami che colpì Indonesia, Sri Lanka, India e Thailandia. Il 26 dicembre 2004 un sisma di magnitudo 9,15 al largo dell'Indonesia scatenò un maremoto. Il mare si ritirò per chilometri per poi abbattersi con furia devastante sui litorali, uccidendo almeno 230.000 persone in 13 paesi, oltre 3 milioni gli sfollati. Tante le cerimonie in queste ore nei paesi più colpiti, Indonesia, Sri Lanka, India e Thailandia. In Thailandia la cerimonia principale è avvenuta presso il memoriale di Bannam Khem, un villaggio di pescatori che fu distrutto dalle onde. Solo lì morirono 1.400 persone. L'enorme sforzo di ricostruzione coinvolse fino a 500 organizzazioni non governative per aiuti complessivi di 14 miliardi di dollari. 11 anni dopo le aree colpite sono state completamente ricostruite, ma il ricordo del più catastrofico disastro naturale dell'epoca moderna resta indelebile. Marta Cagnola, Radio 24, il sole 24 ore. Con la legge di stabilità il bilancio del Ministero dei Beni Culturali aumenta del 27%, passando da 1,5 miliardi del 2015 a 2,1 miliardi nel 2016. Ad annunciarlo il Ministro della Cultura Franceschini, che sottolinea si torna a investire e ad assumere. In chiusura il calcio, nuova batosta per il Manchester United, sconfitto 2-0 dallo Stoke City nel Boxing Day della Premier League. Ora in campo invece il grosso delle partite di giornata. 16, 3 minuti e 20 secondi è tutto per questa edizione GR24, si aggiorna alle 17. Amore.

verso quel deragliamento che porta la commedia al comico, che era la cosa che sapevano fare i grandissimi, insomma, in Italia Totò, Fantozzi, insomma. E ovviamente, professore, Vacanza ai Caraibi è praticamente il cinepanettone classico, possiamo dirlo? Quello più vicino alla matrice originaria del cinepanettone, con tanto di vacanze, una sorta di finture operator che gli hanno... Sì, ormai tra un po' hanno finito, dovranno fare vacanze a... ma invece tutto c'è, potranno fare vacanze a Natale a Marte, Natale su Venere, Natale su Saturno. Mentre... Tanto la peculiarità dei cinepanettoni è che ovunque vadano, sembra sempre che siano in Italia, incontrano soltanto italiani e sembra che in tutto il mondo gli americani, gli indiani si comportino esattamente come fossimo a Trastevere o come fossimo in un quartiere milanese, quindi credo che sia infinita la potenzialità di variazione che c'è sul cinepanettone, anche se il modello si sta ovviamente ormai esaurendo e abbastanza sfibrando. Mentre Massimo Boldi era già uscito il 12 novembre con la regia di Paolo Costella, Matrimonio al Sud, insieme a un cast piuttosto nutrito, tra cui insomma spiccava Biagio Izzo. Tu la vedresti una reunion Boldi De Sica? Mi sembra un po' improbabile per come sono andate le cose e per come si sono poi strutturate anche sul piano produttivo. Certo è che non bisogna mai gridare, come hanno fatto alcuni, il cinepanettone è morto, Boldi è morto, davano questo film a incassi pressoché zero, e invece si è difeso più che dignitosamente, anche perché il pubblico del cinema, da questo punto di vista, cioè c'è una fetta di pubblico che un po' per inerzia, un po' per affezione, un po' per tifo, segue i propri Beniamini, e quindi ci sta, insomma, che Boldi e sì che incassino ancora. Mi pare più interessante però, Marta, se me lo permetti, l'affermarsi di nuovi modelli che sono effettivamente innovativi rispetto al passato. Cioè, io trovo che uno come Edoardo Leo, che è tra l'altro in questi giorni sugli schermi assieme a Giallini, con Loro Chi, così come Trovo da Non Perdere, non è proprio una commedia, ma qui il discorso si fa interessante, Gli Ultimi Saranno Ultimi di Massimiliano Bruno, perché Massimiliano Bruno è tra gli autori di commedia, assieme a Edoardo Leo, insomma, uno dei più intelligenti, dei più innovativi, e perché Gli Ultimi Saranno gli Ultimi dimostra come la commedia italiana, a differenza di commedie di altre cinematografie, a differenza di quanto accade per lo più in Francia, in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti, è una commedia che sa farsi carico anche del dolore. Ma questo storicamente, nella commedia italiana si muore. Pensate al Sorpasso, come va a finire il Sorpasso. Pensate alla Grande Guerra, dove i due Sordi e Gassman muoiono entrambi alla fine. Certo. E non è così scontato costruire una commedia che ha nella morte dei protagonisti il proprio epilogo. Quindi la commedia italiana è una commedia talmente ampia e profonda che sa farsi carico perfino della morte e del dolore, come del dolore si fa carico in maniera estremamente intelligente e non scontata, non banale, non stereotipata, il film di Massimiliano Bruno, Gli Ultimi Saranno Ultimi, con una superba Paola Cortellesi che riesce a passare davvero dai toni lievi della commedia ai toni di una sorta di tragedia moderna, riuscendo a tenere assieme gli opposti, che è poi la grandezza che ha storicamente contraddistinto la commedia italiana. Poi dal 1 gennaio non ce ne sarà più per nessuno, professore. Dal 1 gennaio basta. Arriva un tornado, e speriamo che sia un tornado e che porti tante energie e anche tanti incassi al cinema italiano, perché esce Quo Vado di Gennaro Nuzziante con Checco Zalone, che è forse uno dei film più attesi. Gli ricordo l'exploit che la coppia Nuzziante Zalone fece 2 anni fa con il loro ultimo film, arrivando a piazzarsi al primissimo posto nella classifica degli incassi. Forse non ripeteranno quell'exploit, ma insomma, da quello che ho visto, sentito, da come me ne hanno parlato loro, da piccoli segreti che mi hanno rivelato, le carte per fare un altro exploit analogo a quello di 2 anni fa ci sono tutte. E poi credo che Checco Zalone sia davvero una delle grandi maschere comiche dell'Italia contemporanea. Magari la metto giù un po' dura, ma insomma mi sembra che dopo Totò Fantozzi, lui sia quello che oggi più incarna

kiss.